diciamo che il lavoro oramai diventa una specie di miraggio più che un'immaginazione. Si tratta di un breve ciclo di iniziative che dà seguito a un piano di lavoro abbastanza complesso e di lungo respiro, che è stato concepito dalla neonata rete degli archivi del presente, una rete informale ma molto estesa di archivi pubblici e privati coordinati dalla Soprintendenza Archivistica Emilia Romagna, che si è già prodotta, quindi non nasce a tavolino con le buone intenzioni, ma dall'affiatamento di un gruppo di lavoro che ha già prodotto due mostre documentarie sul 77 e sul 68 i relativi cataloghi finanziati dalla Regione Emilia Romagna. Adesso però bisogna andare avanti nella consapevolezza che è necessario conoscere gli archivi e valorizzarli, riuscire a tenerli in ordine e creare la consapevolezza dell'infinita utilità che hanno gli archivi, anche se a tutta prima sembra una cosa un po' topesca, diciamo. Invece hanno bisogno di tecnologie avanzate, di investimento, e la città se ne deve accorgere. Questa è la premessa. Dopodiché siamo disposti ad affrontare anche temi un po' scomodi di recente passato, un po' vintage, ai quali si guarda con uno sguardo strabico, presbite, non so come dire, ma con una visione ancora molto, molto nebulosa, come per esempio la questione operaia, che è un po' il grande rimosso di questi nostri ultimi anni. E quindi l'iniziativa di venerdì 17 in Camera del Lavoro, speriamo che la cabala ci sia amica nonostante tutto, va proprio in questa direzione di approfondimento. Questo incontro inizia alle 15:30 nel Salone Giuseppe Di Vittorio e saranno presenti Valerio Monteventi, scrittore e attivista del Centro Sociale VAG, Francesco Garibaldo, dirigente della Fondazione Sabatini, Edgarda degli Esposti, che è una testimone che porterà delle testimonianze sul lavoro, e un sociologo, Federico Chicchi. Sì, docente di sociologia del lavoro al Dipartimento di Scienze Politiche, che recentemente ha editato un volume su una rilettura di Marx, quindi molto interessante per andare a vedere se si può reinterpretare il recente passato con un occhio al futuro, diciamo. C'è anche un video intervento, però un'intervista invece che verte di più sull'approccio culturale della questione sul presente, diciamo. E poi c'è anche alcuni episodi di un documentario di Francesco Conservano e Nene Grifagnini dal titolo Alla catena, due secoli di classe operaia. Sì, questo è un vecchio videodocumentario prodotto nell'occasione di un anniversario CGIL che abbiamo ripescato, che non mostreremo in maniera conseguente anche perché è lunghetto, ma useremo, smembrato in alcune sue parti, come stacco tra i vari interventi, perché è già di per sé una specie di lungo loop di spezzoni di immaginario anche filmico, da Charlot a Mimì Metallurgico, Cipputi e quant'altro, che ci richiamano a quella che è stata la mitologia, l'epopea, la grande retorica di fabbrica degli anni 70. Quindi ci sembra così anche divertente fare questo contrappunto. E gli unici due interventi che non hanno questa scansione sono appunto la video intervista a Claudio Longhi, direttore di ERT, cui alludevo, e appunto l'intervento di Federico Chicchi, perché vanno quasi in sequenza, secondo me, rispondendosi un po' l'uno con l'altro. Longhi ha lavorato sul riadattamento teatrale della sceneggiatura di Pirro Petri per la classe operaia in Paradiso, e quindi ha dovuto mettere mano con gli occhi del presente, per un pubblico del presente, appunto a questa storia un po' distopica che non piacque tanto neanche ai tempi, di conflitti operai e di improbabili o quantomeno difficili alleanze con gli studenti. Ricordiamo che ci saranno anche un altro paio di appuntamenti in marzo e maggio. In marzo e in maggio, in cui ci occuperemo prima della parte, diciamo, assertiva che la classe operaia seppe mettere in campo, oltre le proprie rivendicazioni rivolte a tutta la società quando si occupò di welfare, istruzione, 150 ore, riforma psichiatrica, eccetera. Anche questo molto dimenticato, questo aspetto. E poi infine, con ospiti, non voglio spoilerare, si spera così abbastanza noti anche al grande pubblico, a quello non specialistico, diciamo, vorremmo discutere appunto più puntualmente sulle trasformazioni del mondo del lavoro odierno.